quando penso ai tuoi occhi, così chiari e così belli. Quando sono per strada e il vento mi passa tra i capelli. Quando vengo a cercarti in cerca di fortuna. Se la notte sto sveglio a guardare la tua luna. Ho bisogno di te, ho bisogno di te, ho bisogno di te, ho bisogno di te, ho bisogno di te. Quante notti ti ho cercato, quante volte ero ancora alzato, in ogni momento ti pensavo piangendo. Ti ho cercato e ti ho inseguito, ma non è servito a niente. Forse tu non hai capito che ho bisogno di te, ho bisogno di te, ho bisogno di te. Ho bisogno di te, ho bisogno di te, amore, amore, ho bisogno di te, tutte le ore ho bisogno di te, quando ti guardo ho bisogno di te, mi piaci tanto, tanto. Anche quando vado forte in moto penso sempre a te. Anche di mattina a scuola sei sempre con me. Ma forse molti non hanno ancora capito che ho bisogno di te. Ho bisogno di te. Ho bisogno di te. Ho bisogno di te, ho bisogno di te. Quante notti ti ho pensato, quante volte ero ancora alzato, in ogni momento ti pensavo piangendo. Ho bevuto quasi un litro ormai, non mi reggo neanche in piedi, ma forse adesso finalmente tu lo sai che ho bisogno di te, ho bisogno di te, ho bisogno di te, ho bisogno di te, ho bisogno di te. Amore, amore, ho bisogno di te, tutte le ore ho bisogno di te, quando ti guardo ho bisogno di te, mi piaci tanto, tanto. Torno a casa sulla moto, qualche metro ancora poco, sono bello ubriaco, per fortuna non ho picchiato.